Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Algante e il traghettatore, ben trovati. Oggi la prima notizia, è di dominio pubblico tutto sommato, ma ci piace ricordare che si apre il meeting dell'amicizia, la 32esima edizione, ci sarà anche il presidente Giorgio Napolitano, si apre ovviamente a Rimini. Lo spettacolo inaugurale peraltro sarà proprio in piazza Cavour, è festa ed è una serata di canti popolari che servono a rievocare, anche un po' a raccontare l'unità d'Italia. L'agenda completa di questa 7 giorni di convegni, mostre e spettacoli è sul sito di meetingrimini.org. E con il consigliere incaricato di Assolombarda sui temi di innovazione, ricerca e digitale, quindi una bella batteria di medaglie, Carlo Bonomi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ma non sono un generale russo. No, non ancora, perlomeno. Con Carlo Bonomi parliamo di telelavoro, perché fra Asso Lombarda, giusto appunto, e Regione Lombardia, è stato firmato un protocollo in cui ci si impegna a incentivare questa azione. Intanto, che cos'è il telelavoro esattamente, come si configura e quali sono queste azioni, Carlo Bonomi? Sì, ecco, noi come Asso Lombarda abbiamo promosso questo convegno per appunto promuovere conoscenza e utilizzo del telelavoro quale modalità innovativa di gestione del rapporto di lavoro, con un particolare riferimento all'industria dei servizi innovativi. Ovviamente in un contesto dove è forte l'esigenza per le imprese di migliorare le proprie capacità in termini di produttività e competitività, altrettanto importante la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli familiari. E quindi riteniamo che il telelavoro può diventare un valido strumento per una razionale organizzazione del lavoro. Ecco, il fatto che a firmare questo protocollo sia anche Regione Lombardia vuol dire che questa azione riguarda anche gli enti pubblici, non solo le imprese private. Infatti la Lombardia ha già un piccolo primato, mi pare. Sicuramente, Regione Lombardia ha un primato. Noi molte volte siamo portati a pensare alle pubbliche amministrazioni come qualche cosa che è sempre indietro rispetto alle tematiche del lavoro. Oggi invece Regione Lombardia si pone tra sicuramente le regioni d'avanguardia a livello anche europeo, tant'è che tra la sua forza dipendenti ha già 45 postazioni di telelavoro che conta di implementare nel breve. Molto brevemente, perché il tempo ormai sta per esaurirsi, non è soltanto una questione tecnologica il telelavoro, consigliere, ma anche giuridica, sindacale, contrattuale. Assolutamente, dicevi giustamente te, il protocollo si configura come un'esperienza pilota con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità della vita, la crescita imprenditoriale e il rafforzamento della cooperazione appunto con le amministrazioni regionali e il sistema delle imprese. Noi riteniamo ovviamente che ci sono in questo momento alcuni aspetti che devono essere ulteriormente posti all'attenzione. Citavi giustamente l'aspetto giuslavoristico, pensiamo solo alle implicazioni della legge 626 per la creazione di un posto di lavoro in un ambiente domestico, però riteniamo che il telelavoro sia sicuramente un volano per lo sviluppo e per la conseguente posizione della connessione della banda larga, della larghissima banda, che secondo me sono due condizioni necessarie e imprescindibili per poter sviluppare il telelavoro. E un'ultima battuta, ma proprio 10 secondi, questa è l'agenda digitale, è di questo che stiamo parlando? Assolutamente sì, è una parte dell'agenda digitale del paese. Grazie, buon lavoro. Sì. Chiudiamo con una notizia che riguarda, che è un po' un gioco, ma come sempre nel nostro caso giochi che hanno uno scopo ben preciso, solidale. E il sito di Citroen che vi segnaliamo, c'è un'iniziativa, si chiama Click Donation. Entrando in questo sito e cliccando in una speciale classifica formata da 5 organizzazioni non profit, aiutate queste associazioni a scalarla, questa classifica. Se entrate e votate per esempio AIBI, Amici dei Bambini, che avete conosciuto proprio nel corso di una delle nostre puntate, e riuscite a spingere l'associazione per arrivare al primo posto, bene, questa associazione vedrà riconoscersi da Citroen una monovolume che servirà poi ovviamente all'uso, all'attività dell'associazione no profit. Si può esprimere questa preferenza fino al 26 agosto, ancora pochi giorni. È tutto per questa puntata di Ferry Boat. Grazie in regia a Paolo Corleoni e a Nita Panizza in redazione. Alla prossima.